ci ricolleghiamo poi appunto a quello che abbiamo sentito anche poco fa. San Francesco estate, musica e teatro in piazza. La curatela è di Ert, l'esordio, per quanto riguarda esordio, insomma, l'inizio, ecco, del festival edizione 2024, per meglio dire, mi correggo, l'inizio è questa sera alle ore 21 con Ateliersi, La mappa del cuore di Lea Melandri, di e con Fiorenza Menni, Andrea Mochi Sismondi, che già abbiamo conosciuto, e con Francesca Pizzo. Beh, è uno spettacolo in musica e non solo, è uno spettacolo di grande contenuto che ci riporta agli anni Ottanta, con la tipicità degli anni Ottanta, con una pubblicazione editoriale che forse ho sentito dire non era esattamente nelle mie letture, ma probabilmente anche di tante e tanti di voi. Però per gli adolescenti dell'epoca, soprattutto le ragazze, era un fondamentale per poter condividere, comunicare, sfogarsi, conoscere. Insomma, ne parleremo insieme a Fiorenza Menni con La mappa del cuore di Lea Melandri, che non è, per così dire, semplicemente la tipica posta che arriva a una persona importante e impegnata come Lea Melandri, di cui parleremo con Fiorenza a breve, ma è stato qualcosa di più, eh. Alla fine, darne uno sguardo più approfondito, conosceremo, e onore al merito chi ha riportato anche i motivi concreti, con le lettere si scriveva all'epoca, sapete, non si digitava, per cui insomma non si mandavano i messaggini o i WhatsApp, però si aveva questa letteraria corrispondenza epistolare, anche per motivi di quotidianità che non son poi così superficiali, nonostante gli anni Ottanta, lustrini e paillette, sappiamo bene. Poi parleremo anche di musica, perché è un po' una colonna sonora particolare quella che abbiamo voluto portare. Intanto iniziamo allora questa anticipazione per quanto riguarda lo spettacolo di questa sera, La mappa del cuore di Lea Melandri, di e con Fiorenza Menni, di cui appunto ho avuto conversazione per darne approfondimento. San Francesco estate, musica e teatro in piazza, un calendario molto esteso già dal primo weekend. La serata di venerdì 21 giugno alle ore 21 con la curatela di Ateliersi, La mappa del cuore di Lea Melandri, di e con Fiorenza Menni. Beh, ovviamente non solo Fiorenza, che però è qui al telefono con noi, al quale do il buongiorno. Buongiorno e benvenuta. Buongiorno a voi. Allora, come ho detto, sarai ben accompagnata sul palcoscenico. Ci puoi dire qualcosa di più per iniziare il nostro dialogo? Beh, sì, certo, con me sul palco ci sarà Andrea Mochi Sismondi, co-direttore artistico di Ateliersi, coautore con me di questo spettacolo, e poi ci sarà anche Francesca Pizzo, cantante e persona meravigliosa, alla quale abbiamo pensato anni fa, quando abbiamo iniziato a immaginare questo lavoro, come interprete di Simon Le Bon. Lei, con grande disappunto, ha accettato e ora è innamorata. Ma la serata in realtà verrà chiusa da un incontro con Lea, perché per fortuna Lea Melandri venerdì tornerà a vedere La mappa del cuore, quindi sarà con noi anche lei. E appunto, allora, a tale proposito, hai già svelato sulla colonna sonora, molto particolare, ma che ha avuto un successo clamoroso per l'epoca. Parliamo dei contenuti a questo punto. La mappa del cuore di Lea Melandri è uno spettacolo scritto attorno a questa esperienza abbastanza strana, se vuoi, per Lea femminista storica o meglio fondatrice, una tra le fondatrici del femminismo italiano ancora assolutamente attiva. Le fu fatta una proposta stranissima, cioè la rivista Ragazza In, rivistuccola meravigliosa, perché io la leggevo, per ragazzine, per teenager, propose a Lea di curare una rubrica di posta. Lea all'inizio disse: ma come vi permettete di chiedermi una cosa di questo tipo? Poi ci pensò, perché loro dissero: ma noi vogliamo proprio che le ragazzine entrino in contatto con pensieri un po' diversi, con un modo di vedere il mondo un po' diverso. E non era una questione di fare propaganda, assolutamente, perché Lea poi nella scrittura è poetica. E poi le dissero: poi non c'è problema, se le lettere arriveranno e aumenteranno e la rubrica va bene, continueremo, altrimenti si interrompe. In realtà questa rubrica ebbe un grandissimo successo, e le lettere arrivavano e si moltiplicavano, e Lea poté sviluppare questo rapporto, questo sviluppo di una scrittura epistolare con tantissime ragazze e ragazzi a livello nazionale, i quali tra l'altro si scrivevano anche tra di loro tramite il dialogo con Lea. Sun drips down, bedding heavy behind the front of your dress, all shadowy lined, and the droning engine throbs in time with your beating heart. Possibile vorrei portare colonna sonora a tema, ho detto durante l'intervista a Fiorenza, come faccio, perché i Duran Duran non è che siano, insomma, e lei stessa ha confermato, sì, come hai ascoltato durante la conversazione, non è che, ma all'epoca veramente un successo clamoroso, e quindi lei mi ha consigliato questo brano, tra l'altro bel consiglio, anche perché non è esattamente la hit di Wild Boys o del Rio o tante altre. Fra l'altro, però, per quanto riguarda la produzione dei Duran Duran, collabora anche Nile Rodgers degli Chic. E alla fine, da questa importante figura impegnatissima, come Lea Melandri, tra l'altro nata a Fusignano, a proposito, di classe 1941. Sì, inizialmente, insomma, un po' di reticenza vista la proposta da questa rivista, e poi un approfondimento di contenuti che è andato veramente oltre, e che questa sera alle ore 21, Piazza San Francesco, musica teatro in piazza con ERT, la collaborazione di Ateliersi, per quanto riguarda questo inizio di rassegna, sarà su questo bellissimo palcoscenico e darà modo di riportare questo, chiamiamolo ossimoro se vogliamo, ma è proprio dai contrasti poi che nascono le ispirazioni, i percorsi e, perché no, anche la crescita, insomma. Io direi di continuare ad ascoltare l'approfondimento riportato da Fiorenza, che sarà in scena questa sera. E noi abbiamo chiesto a Lea se potevamo fare uno spettacolo su questa sua esperienza, e a lei è piaciuto molto, anzi ci ha donato tutte le lettere che aveva conservato e tutte le riviste che aveva conservato. Quindi in scena con noi ci sono anche queste centinaia di lettere scritte negli anni Ottanta da queste creature meravigliose che poi che poi abbiamo anche contattato, perché alcuni hanno anche fatto l'errore di mettere il nome, cognome, indirizzo, tutto. E quindi abbiamo fatto anche un lavoro di recupero, le abbiamo incontrate alcune, è stato molto molto bello. E oltretutto allora faceva anche da centralino, si può dire, epistolare, per mettere in comunicazione le diverse voci. Sì, lo facevano le ragazze, e le ragazze tramite la sua rubrica rispondevano, magari, perché Lea non dava delle risposte che aprivano pensieri, aprivano discorsi, non è che chiudeva, diceva beh, vedrai, ti passerà ora un momento così, troverai la persona giusta, o sciocchezze di questo tipo, no, lei innalzava il discorso su una questione più universale in relazione ovviamente ai suoi temi, senza mai fare propaganda, e questo è stata veramente una penna eccezionale. nazionale su quella rubrica, e le ragazze attraverso i suoi pensieri poi rispondevano magari ad un'altra ragazza che aveva scritto di un suo problema. Gestiva anche le duraniane, che per lei era un compito, ti puoi immaginare, abbastanza particolare, perché sì, comunque era l'epoca in cui c'era questo fanatismo particolare, che lei in qualche modo comunque riconduceva a delle necessità, dei bisogni identitari, insomma innalzava anche in quel caso il livello della discussione con le duraniane. E io devo fare sempre un po' a rovescio, eh? Qual era il contraltare? Che se io non ascoltavo nemmeno loro, però aggiungo una cosa, rispetto agli Spandau Ballet. Qualche anno fa mi ricordo che casualmente, tornando dalla spiaggia da solo, l'auto non era sintonizzata nella funzione CD, era su un emittente, e partì questa canzone. Pensando alla musica che c'è adesso, ho detto, oh, io ho criticato tanto, ho avuto parole durissime per gli Spandau Ballet, ma mi sembra scritta da Dio questa canzone rispetto a quello che ascoltiamo adesso. Comunque, detto questo, arriviamo alla conclusione per lo spettacolo di questa sera. San Francesco Estate, la mappa del cuore di Lea Melandri, con Fiorenza Menni, Andrea Mochi, Sismondi per Ateliersi, e con Francesca Pizzo. Parleremo di musica, anche di come è strutturato musicalmente e anche di come si è arrivati al contenuto di questo scritto epistolare, composto veramente da diverse lettere che non avevano poi dei contenuti così superficiali, eh? Oltre ad aver parlato di questi temi che ritroveremo, c'erano anche altri aspetti, oltre a quello emotivo sentimentale, per i motivi di dialogo in questa corrispondenza? Sì, in realtà iniziarono ad arrivare anche molte lettere esistenziali, anche da persone per esempio in carcere, persone che si trovavano in situazioni di grande disagio, purtroppo ragazzine che il dialogo con lei hanno trovato il coraggio per svelare magari maltrattamenti o cose anche più gravi che potevano essere successe nell'ambito domestico. Quindi era diventato anche un luogo per questo tipo di coraggio, parlare anche di problematiche, non so, legate anche all'identità sessuale, cose che, certo, appunto, come dice Lea, si pensavano che naturalmente fossero dovute tenere a tacere per pudore, no? Il pudore era considerato una cosa naturale, e invece attraverso questa esperienza ha perso questa naturalezza e le persone hanno trovato coraggio per parlarne. Non era compito di lei ovviamente risolvere, ma era importante che le persone cominciassero a avere il coraggio di raccontarsi. Perché? Al di là di sono innamorato, le gambe, esatto, storte, il naso brutto. Okay. Sì. E tu hai curato anche il progetto sonoro, in che senso? Sì. Beh, nel senso che io non sono nata come musicista, non ho una formazione da musicista, ma considero gli spettacoli sempre prima di tutto da un punto di vista musicale. Per me sono i nostri spettacoli, sono dei concerti dove noi incastoniamo la drammaturgia, e potrei dirti che la musica è l'ambiente, è la scenografia, sì. è quel pezzo di atmosfera, quel pezzo di mondo dove desideriamo che le persone vengano a vivere l'esperienza con noi. E in questo caso mi piaceva l'idea completamente lontana, perché anch'io all'epoca non ero una duraniana, ok? Per cui mi è stato anche molto difficile all'inizio, avevo dentro di me come proprio una voce che mi diceva: tu devi lavorare sui Duran Duran, e l'altra che mi dice: ma come, ma io i Duran Duran all'epoca ero una dark, stavo tutto su un altro piano, anzi. E invece ne ho parlato con Vincenzo Scorza, che invece compone e elabora le musiche dei nostri spettacoli, e abbiamo iniziato proprio a fare uno studio, ci siamo innamorati delle sonorità, delle capacità dei Duran Duran, e ne abbiamo tolto tutto quello che secondo noi invece ci infastidiva, e abbiamo chiesto a Francesca di cantare. Quindi il nostro spettacolo, ti direi che è un concerto, una riscrittura delle canzoni dei Duran Duran, dentro al quale abbiamo incastonato la drammaturgia attraverso le lettere e le risposte di Ragazza In, della rubrica. Primo appuntamento nel calendario estivo con la curatela di ERT. Fiorenza, io ti ringrazio tantissimo e ti auguro una buona giornata. Grazie a voi e buona giornata, e a presto. Mi rendo conto della difficoltà per l'approccio con i Duran Duran, poi è un po' quello che è capitato a me con gli Spandau, se vogliamo, però attenzione, la playlist la chiudiamo con quello che ascoltavo poi anch'io all'epoca, lo sapete già, beh, per me Style Council tutti i tempi. Dal 21 giugno al 28 luglio abbiamo dato approfondimento al primo appuntamento, grazie tra l'altro Fiorenza e grazie a Tegliersi. Ricordo, gli appuntamenti sono a ingresso libero, venerdì, sabato e domenica alle ore 21, Piazza San Francesco, Bologna. Grazie anche a ERT, ovviamente. Siamo partiti con un buongiorno all'estate, chiudiamo con un buon proseguimento all'estate, anche se vorrei un sole un po' più deciso. E allora lo portiamo con l'incoraggiamento degli Style Council, Paul Weller, Long Hot Summer. Io do appuntamento a lunedì con i magazine per iniziare la settimana. A tutte le super mattiniere e i super mattinieri mi congedo con un caloroso abbraccio, servo vostro William Piana, un buon ascolto su Radio Città Fujiko e buon weekend. Il primo d'estate 2024. A lunedì. Shitty did it, did it, did it, did it, did it, did it, did it, did it, did it, did it, did it, did it, did it, did it, did it, did it, did it, did it, did it, did it, did it, did it, did it, did it, did it, did it, did it, did it, did it, did it, did it, did it, did it, did it, did it, did it, did it, did it, did it, did it, did it, did it, did it, did it, did it, did it, did it, did it, did it, did it, did it, did it, did it, did it, did it, did it, did it, did it, did it, did it, did it, did it, did it, did it, did it, did it, did it, did it, did it, did it, did it, did it, did it, did it, did it, did it, did it, did it, did it, did it, did it, did it, did it, did it, did it, did it, did it, did it, did it, did it, did it, did it, did it, did it, did it, did it, did it, did it, did it, did it, did it, did it, did it, did it, did it, did it, did it, did it, did it, did it, did it, did it, did it, did it, did it, did it, did it, did it, did it, did it, did it, did it, did it, did it, did it, did it, did it